L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti al nostro consueto ripasso dei fatti più importanti della settimana, al nostro riepilogo delle notizie che vanno da sabato scorso 12 settembre fino a ieri venerdì 18 settembre. Naturalmente è piuttosto facile capire dove andrà a parare soprattutto la puntata di oggi. Apriremo doverosamente con un'ampia riflessione sull'attentato in Afghanistan di giovedì. 6 soldati italiani sono morti. Naturalmente non trascureremo la politica con il suo momento apicale forse della settimana, con l'explosione di Berlusconi a Porta a Porta, ma anche le vicissitudini legate al lodo Alfano, e in mezzo naturalmente a questi due appuntamenti fondamentali di questa puntata odierna dell'ottavo giorno parleremo comunque di altro, dalla cronaca nera allo sport. Esplosione poco fa per le strade di Kabul, ci sarebbero 6 morti, fra questi anche degli italiani. Le informazioni al momento sono davvero pochissime. Secondo i giornalisti dell'AFP sul posto, la fortissima esplosione che ha scosso il centro di Kabul, di origine ancora non chiarissima, la televisione afghana Tolo di Kabul ha messo in onda delle immagini relative all'attentato che mostrano un mezzo italiano Lince danneggiato nella parte interiore. Pochissimi istanti fa la conferma che appunto ci sarebbero anche delle vittime italiane. E sono le 10.40 circa di giovedì, di 2 giorni fa, e questa è la breaking news con la quale Radio 24 annuncia quella che poi sarebbe diventata una notizia pesantissima, avrebbe dominato la scena in tutti questi giorni, una notizia tragica per i nostri militari, per i nostri colori italiani in Afghanistan. Infatti pochi minuti dopo le 12 di Kabul un'autobomba kamikaze colpisce proprio 2 blindati italiani. Alla fine il bilancio parla di 6 parauccisi, 4 feriti, e poi non dimentichiamoci dei 20 civili afghani morti nell'esplosione. Lunedì si svolgeranno i funerali di Stato. Abbiamo in collegamento al telefono Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che in tanti anni è stato in tanti territori di guerra o comunque caldissimi, dall'Iran all'Iraq e naturalmente anche l'Afghanistan. Saluto caldamente, buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Alberto, rapidamente poi vogliamo subito sentire la voce dell'inviata di Radio 24 a Kabul, Cristina Balotelli, che era lì vicinissima al tragico evento. Vorrei chiederti innanzitutto sul piano militare e anche se vuoi politico lo dico naturalmente tra virgolette, questo attentato, peraltro è arrivato subito dopo l'ufficialità della vittoria di Karzai nelle elezioni presidenziali, che cosa insegna, che cosa vuole dire alla coalizione guidata dagli americani e anche a noi italiani? I talebani sono più o meno forti di prima dopo questa vicenda? Ma i talebani si erano già rafforzati in realtà nell'ultimo anno, anno e mezzo, già sul finire della presidenza di Bush, e quando Obama ha sostituito Bush si è trovato davanti questa sorta di Vietnam asiatico dell'Asia centrale, che in qualche modo, da cui bisognava in qualche modo uscire, in qualche modo risolvere la situazione. In realtà tutti sono ben coscienti che si tratta di una missione che potrebbe durare molti e molti anni, con dei problemi evidenti, cioè l'Afghanistan è cominciato nel 2001, sul terreno quando gli americani entrarono c'erano 300 soldati americani, il resto erano combattenti dall'Alleanza del Nord, poi nel 2003 è iniziato l'Iraq e l'Afghanistan è, come dire, scomparso un po' dai riflettori, dall'attenzione, e quindi si tenevano poche migliaia di soldati con un governo, quello di Karzai, che insomma veniva un po' trattato come una sorta di protettorato americano, e si sono lasciate un po' in qualche modo perdere le occasioni buone per poter sistemare la questione afghana, mentre dall'altra parte saliva molto e di parecchio la tensione in Afghanistan. Finita la questione irachena, o perlomeno in qualche modo acquietata la questione irachena, l'Afghanistan è riesploso in tutta la sua drammaticità, con un problema, che ci vogliono più truppe sul terreno. Queste sono state aumentate, da 40-50 mila soldati si è passati a 100 mila tra militari della NATO e americani, e adesso i generali chiedono rinforzi. I rinforzi sono arrivati un po' di più con le elezioni, e questo attentato in qualche modo, soprattutto per l'Italia, cosa vuol dire? Vuol dire che si vorrebbero far rientrare perlomeno i rinforzi che si sono inviati per le elezioni del 20 agosto, e poi qualcuno comincia a parlare di una via di uscita dall'Afghanistan. Ecco, tra poco parleremo di un'eventuale opportunità o meno di un exit strategy. Hai parlato tra l'altro di Vietnam asiatico, non sei il primo, ricordo l'anno scorso Zakaria, opinionista di punta di Newsweek, che disse proprio che l'Afghanistan rischiava di diventare per Obama il Vietnam che fu tanti anni fa per gli Stati Uniti. Adesso però vorrei far sentire la viva voce di Cristina Balotelli, inviata a Kabul di Radio 24. Giovedì si trovava proprio a pochi chilometri e anche a pochi minuti in fondo dalla bomba. Il suo racconto era su tutti i giornali ieri, a cominciare naturalmente dal Sole 24 Ore. Ecco un passaggio di uno dei tanti collegamenti che la nostra Cristina Balotelli ha fatto in giornata a Radio 24. Io sono partita con questo volo militare da Abu Dhabi molto presto nella mattina. Siamo arrivati intorno alle 11:30 a Kabul. Sul mio volo c'erano sicuramente alcuni di questi militari che sono morti nell'attentato. Ho visto le reazioni dei loro compagni, dei loro commilitoni, qualcuno ha pianto, qualcuno ha sbattuto rabbiosamente i pugni, perché le reazioni in questi casi sono rabbia e grande dolore perché sono i loro amici prima ancora che i loro colleghi. E purtroppo noi lo scoppio l'abbiamo addirittura sentito, anche se l'attentato è avvenuto ad alcuni chilometri di distanza, 3 o 4 chilometri rispetto all'aeroporto, però si è sentito questo rumore sordo in lontananza, tant'è che io all'inizio ho pensato a un razzo, invece era qualcosa di molto peggio, era un'autobomba. Abbiamo anche visto la colonna di fumo che si levava in lontananza. Alberto Negri, collega del Sole 24 Ore, abbiamo ancora un minuto prima della pausa, poi naturalmente approfondiamo ancora il discorso. Quindi ti chiedo al volo, da collega a collega di Cristina Balotelli, una sensazione, insomma, tu che ne hai viste tante di scene di guerra, che cosa ti è passato in mente sentendo queste parole di Cristina Balotelli? Ma io ripercorso immediatamente quella strada che ho fatto dozzine di volte anche nel luglio scorso. Dall'aeroporto al luogo dell'attentato sono 3 chilometri, è un lungo viale diritto che si chiama, appunto, per gli abitanti di Kabul viene chiamato il viale dei kamikaze, proprio perché lì c'è un'esplosione alla settimana, anche meno, e si arriva in questa grande piazza circolare, una sorta di rotonda che è stata dedicata a Massoud, il capo tagico ucciso nel settembre del 9 settembre del 2001. E ho pensato proprio che quella strada, io l'ultima volta l'ho evitata perché adesso c'è una circonvallazione che permette di aggirarla e di entrare da Kabul da un'altra parte. Per i militari italiani però era purtroppo una strada obbligata, perché loro dovevano recarsi al comando della NATO. L'ottavo giorno. Siamo sempre in compagnia di Alberto Negri, collega inviato del Sole 24 Ore, che conosce molto bene l'Afghanistan, come ci ha già ricordato nella prima parte del programma, e quindi proseguiamo a cercare di ragionare attorno a questo tragico evento, la bomba che ha ucciso 6 soldati italiani giovedì a Kabul. Alberto, io vorrei ripartire da quello che tu hai scritto ieri sul Sole 24 Ore, in un lungo articolo, una lunga analisi proprio sulla vicenda dell'Afghanistan. Hai detto a un certo punto, hai scritto: l'Italia ha riscoperto non soltanto l'Afghanistan, ma di essere un paese che pullula di esperti che parlano con grande acume di exit strategy. Sono spesso le stesse persone che ci spiegavano un tempo perché dovevamo, e lo sottolinei con le virgolette, andare a Kabul. Direi che queste tue frasi già lasciano intendere qual è la tua opinione sull'opportunità o meno di concentrarsi sull'exit strategy dall'Afghanistan, della quale per esempio ha subito parlato precipitosamente anche Berlusconi, forse influenzato anche dai sondaggi secondo i quali la maggior parte degli italiani vorrebbe che l'Italia, l'esercito italiano, andasse via dall'Afghanistan. Che ci puoi dire a riguardo? Ma io mi rendo conto che questa è una guerra che sta diventando sempre più sanguinosa anche per noi, e ovviamente di conseguenza anche sempre più impopolare. Accade da noi in Italia, ma accade anche negli Stati Uniti, ed è questa la grande difficoltà di Obama a in realtà mandare altre truppe in Afghanistan, ed è questa la difficoltà che abbiamo noi a mantenerle laggiù. Però voglio anche ricordare, forse perché qui siamo di corta memoria in questo paese, che dopo l'11 settembre 2001 tutti i giornali scrissero in prima pagina: siamo tutti americani, e nessuno si oppose, né dal centrodestra né dal centrosinistra, a inviare nel 2003 una missione militare sotto l'egida dell'ONU e l'ombrello della NATO. Ecco, allora tutti dicevano che i nostri erano soldati di pace, ma in realtà ci si nascondeva sotto questa dizione quelli che sono i veri rischi di una missione in Afghanistan, che che non puoi mai essere né completamente di pace né soltanto di guerra. In realtà è una missione in cui tu devi affrontare molti problemi. Alberto, scusa ti interrompo, Alberto. Su questo voglio aggiungere, poi ti lascio completare il ragionamento, una frase secondo me molto bella che ha detto il generale Massimo Ficucello, che è un militare, quindi capisce la materia, ma soprattutto è padre di un soldato morto a Nassiriya. Ha detto: in Afghanistan si tende a confondere il fine, cioè la pace che tutti noi vogliamo, tutti noi ci auspichiamo che si realizzerà prima o poi, con il mezzo per raggiungerla, che a volte è anche la guerra o comunque l'uso della forza. Puoi andare avanti, Alberto. Ah certo, hai fatto benissimo a citare questa frase, tra l'altro conosco il generale molto bene e conosco ovviamente il suo dramma del figlio che morì a Nassiriya, lo spaventoso attentato. E ovviamente chi ha fatto il mestiere del soldato, chi ha anche fatto il mestiere del giornalista nei luoghi di guerra lo sa benissimo queste cose, ma bisogna ricordare anche le missioni in Libano, quella in Somalia. Quando si affrontano situazioni di fortissima destabilizzazione e si affronta la guerriglia, è ovvio che si devono usare le armi e che si trova in situazioni di conflitto. Quindi c'è stata anche una forte ipocrisia in questi anni e poi in generale una certa qual ignoranza un po' dei fatti. Io ricordavo nell'articolo che tu citavi che nel 2008, secondo l'Osservatorio dell'Informazione, soltanto il 6% delle notizie dei principali canali TV nazionali sono stati dedicati alle crisi internazionali. E questo credo che sia abbastanza emblematico. Allora, mi sembra di capire dalle tue parole molto chiare, insomma, che non è il caso di andare via dall'Afghanistan, tantomeno in modo precipitoso. Adesso però riascoltiamo la reazione a caldo in questa convulsa giornata di giovedì della politica italiana. Il servizio è firmato da Simone Spezia. L'ultima nota di una giornata politica convulsa, vissuta in un palpabile clima di cordoglio per i paramorti nell'attentato, è del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. «Non possiamo, dopo aver fatto tanto, abbandonare l'impresa», dice. «Presto rientreranno in Italia 500 militari, ma era sostanzialmente previsto. Sono le forze aggiuntive dislocate in vista delle elezioni presidenziali che ormai si sono svolte. Certo», chiarisce lo stesso Berlusconi, «ci saranno quella che definisce una transition strategy, così come una diminuzione degli organici, ma aggiunge». «Siamo tutti convinti che il meglio per tutti quanti sia di uscire presto. Ne ho parlato con il Presidente Obama durante i giorni di lavoro comune del G8 e stiamo preparando un piano». Insomma, da soli non si fa. Una risposta all'alleato leghista Umberto Bossi, che dice di sperare in un ritorno a casa rapido dei nostri soldati. Irresponsabile, replica a Ballarò il leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini. «Perché se i terroristi sanno che noi abbiamo aperto un grande dibattito e questo attentato ottiene il risultato di mettere in discussione la nostra presenza, da domani mattina si amplificano i rischi per i militari italiani». Allora, sulla stessa linea anche il sottosegretario alla difesa del PDL, Guido Crosetto, mentre il ministro Ignazio La Russa definisce il leader del Carroccio incomprensibile e conferma l'impegno italiano. Il presidente del Consiglio sembra rispondere però anche ad alcune inquietudini nel centro-sinistra. Se il Partito Democratico chiede non il ritiro, ma una riflessione sulla missione, l'Italia dei Valori è più netta. Antonio Di Pietro. «Che ci facciamo? Che ci facciamo ancora in Afghanistan? Ci siamo andati per difendere la pace e portare la pace. Ci ritroviamo in una guerra fra bande dove anche chi ha vinto l'elezione l'ha vinto grazie ai brogli». Alberto, ti risparmio ogni commento sulla politica italiana che abbiamo riascoltato in questo servizio. Invece vorrei chiedere un tuo parere sull'opinione di qualcuno che sottolinea invece che se si vuole in qualche modo risollevare le sorti in Afghanistan bisogna guardare a quello che il generale Petraeus ha fatto in Iraq, non solo perlomeno sul piano militare, ma soprattutto a livello politico, perché gli Stati Uniti hanno costretto al-Maliki a portarsi dentro in qualche modo il suo governo anche i baathisti ex fedeli di Saddam, e quindi in qualche modo forse bisognerebbe fare lo stesso con i talebani in Afghanistan. È uno scenario paragonabile, è un modo perlomeno da cui iniziare per ragionare su un miglioramento delle sorti in Afghanistan, secondo te? Allora, cosa fondamentale che ha fatto il generale Petraeus è stato mettere a libro paga, cioè pagare, le milizie sunnite che facevano la guerriglia e tirarle dalla parte degli americani, con stipendi che variavano dagli 80 ai 200, 300 dollari al mese. In questo modo sono stati messi a libro paga 80.000 guerriglieri. Questo è stato il successo del generale Petraeus, la strategia di Petraeus, che poi ha portato con altri passi al tentativo, insomma, di contenere la guerriglia in Afghanistan e soprattutto di staccare la guerriglia sunnita da Al-Qaeda. E questo è stato in gran parte, in buona parte ottenuto, anche se anche l'Iraq è tutt'altro che lontano dalla pacificazione, come testimoniano anche attentati recenti. In Afghanistan questo è più complesso, non solo perché un vecchio detto afghano che dice i leader e le tribù afghane non si comprano ma si affittano, ma anche perché al di là delle battute è un po' più complessa la situazione, in quanto ha delle proiezioni interne, cioè afghane, ma anche internazionali, al di là del confine con il Pakistan e ben oltre. Quindi che cosa serve? Serve in realtà forte intensificazione dell'azione politica e diplomatica per ridurre, insomma, i costi economici e umani di questa missione e probabilmente fare il passo per cui è stato nominato Holbrooke, inviato di Obama, cioè negoziare con il diavolo, negoziare con i talebani duri e puri, con quelli del Mullah Omar. E questa forse è una delle vie di uscita che potrebbero portare a un cambiamento della situazione. Alberto, per concludere, visto che l'ottavo giorno cerca un po' di guardare a 360 gradi tutti gli avvenimenti sulla scena nazionale e internazionale, ti vorrei chiedere una battuta al volo su quello che ieri abbiamo sentito arrivare invece dall'Iran, altro paese che tu conosci molto bene, perché si è tornato a parlare di tensione, abbiamo di nuovo sentito di scontri di piazza, addirittura aggressioni a Khatami e Mousavi. Un flash da Teheran, dal tuo osservatorio. Beh, queste dimostrazioni di nuovo dell'onda verde che monta di nuovo per le strade di Teheran ci dice che la protesta è un po' come una sorta di fiume carsico in Iran, è destinata ad affiorare ieri come avverrà ancora probabilmente anche in futuro, e soprattutto queste dimostrazioni di piazza accompagnano Ahmadinejad all'Assemblea delle Nazioni Unite e credo che gli impediranno di dire che in Iran va tutto bene. Perfetto, anzi non proprio perfetto, ma insomma ti ringrazio Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per il contributo. Chiudiamo invece questa parte lunga, ampia, dedicata all'Afghanistan con il ritratto dei militari caduti a Kabul. Il ritratto è firmato da Paolo Piacenza. All'età di mio nipote, mi scusi, sono emozionato perché qui ovviamente un paesino di 1000 abitanti, ci conosciamo tutti. Abitava a 500 metri da casa mia circa, quindi l'ho visto recentemente quest'estate. Figlio unico, tra l'altro, quindi lascerà un vuoto ancora più grande in questa famiglia. Valentino Gasparri è il sindaco di Lubriano, piccolo comune in provincia di Viterbo, dove vivono i genitori di Gian Domenico Pistonami, 26 anni, primo caporalmaggiore della Folgore, uno dei 6 militari italiani caduti a Kabul. La sua emozione è quella dei tanti concittadini, amici, parenti dei paracadutisti colpiti dalla violenza dei Taliban. Il tenente Antonio Fortunato, 35 anni, nato a Lago Negro ma originario di Tramutola, in provincia di Potenza, dove vive la famiglia d'origine, era un veterano delle missioni all'estero. Lascia la moglie Gianna, insegnante precaria, e un figlio di 7 anni. Anche il sergente maggiore Roberto Valente, 37 anni, aveva al suo attivo diverse missioni fuori dai confini. Tornava a Kabul dopo una licenza di 15 giorni. A Napoli, in via Consalvo, tra Vomero e Fuorigrotta, vivono sua moglie Stefania e suo figlio di 2 anni. A novembre sarebbe dovuto ritornare definitivamente in Italia. Campano era anche il primo caporalmaggiore Massimiliano Randino, 32 anni, nato a Pagani, in provincia di Salerno. Viveva a Sesto Fiorentino con la moglie e come Valente rientrava a Kabul da una licenza. Il primo caporalmaggiore Davide Ricchiuto era invece nato a Glarus, in Svizzera, ma risiedeva a Tigiano, nel Sud Salento, insieme con la sua famiglia, padre, madre e 2 fratelli. Aveva 26 anni come Pistonami e come Matteo Mureddu, primo caporalmaggiore che viveva a Siena ma era originario di un comune dell'Oristanese, Solarussa, dove risiedono i suoi genitori. Doveva sposarsi lo scorso giugno, ma aveva rinviato il matrimonio dopo la decisione di partire per l'Afghanistan. Il sindaco di Solarussa, Antonangela Secchi, si dice scossa. La madre di Matteo, dice, è mia coetanea. Ci incontriamo spesso e parliamo dei figli e lei era molto preoccupata per Matteo. Poi aggiunge, è difficile accettare che un ragazzo di 26 anni muoia in una missione di pace. Chiudiamo così la lunga parte dedicata all'attentato di Kabul, nella quale hanno perso la vita 6 militari italiani. Tra l'altro la notizia ha oscurato inevitabilmente un altro avvenimento importante di giovedì, cioè la rinuncia degli Stati Uniti allo scudo antimissile ereditato dall'amministrazione Bush, un altro timbro di Obama nel suo corso alla Casa Bianca. L'ottavo giorno. Metà puntata è stata dedicata doverosamente alla tragedia dell'Afghanistan. Adesso ci concentriamo su un'altra notizia tragica e inquietante che arriva da quella che sulla carta è una provincia davvero tranquilla, Pordenone, e su questo tra l'altro vi segnalo un bellissimo articolo di Paolo Rumiz sulla Repubblica di giovedì, quindi per chi vuole riesce a recuperarlo, è un reportage molto interessante. In provincia di Pordenone martedì una ragazza marocchina appena 18enne viene uccisa dal padre a coltellate e subito riemergono gli schemi classici, antichi di interpretazione sul mondo musulmano. Cominciamo dalla fredda cronaca di questo martedì con Alessandra Tedesco nel GR delle 7 di mercoledì. Si chiamava Sanaa Dafani, aveva 18 anni ed era originaria del Marocco. Ieri sera era in compagnia del fidanzato, un italiano di 31 anni, in un piccolo paese in provincia di Pordenone, Grizzo di Montereale, Valcellina. Secondo una prima ricostruzione, mentre si trovavano in auto, i due sono stati aggrediti dal padre della ragazza, che ha ferito il fidanzato e poi ha raggiunto la figlia che cercava di scappare. L'ha accoltellata a morte. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, ma dietro l'omicidio ci potrebbero essere ragioni religiose. Secondo alcuni amici della coppia, il padre non approvava la relazione della ragazza con un italiano, anche perché è più grande di lei, e già in passato aveva minacciato sia la figlia che il fidanzato. Se così fosse, il caso sarebbe simile a quello di Ina, la ragazza pakistana uccisa nel 2006 a Brescia dal padre e da due cognati, perché conviveva con un giovane italiano e per questo non seguiva i precetti islamici. Ieri è stato convalidato il fermo del padre della ragazza uccisa, il quale non parla con i giudici, però pare si sia lasciato sfuggire una missione di colpa con un carabiniere e soprattutto ha detto che era già una settimana che provava a commettere il suo terribile reato. Giovedì invece avevano parlato la madre di Sana e anche il fidanzato ferito. Sentiamo da Pordenone la corrispondenza di Silva Menetto. Parla la madre di Sanaa Dafani e ha deciso di parlare anche il fidanzato della 18enne marocchina accoltellata dal padre. Dopo che l'autopsia ha stabilito che la ragazza è morta in pochi minuti per dissanguamento per le profonde ferite alla gola, Massimo De Biasio dal letto di ospedale ha voluto dare la sua versione dei fatti. Ha confermato che è stato il Ketawi Dafani ad aggredire la figlia martedì sera nel boschetto di Montereale Valcellina. A nulla sono serviti i tentativi di Massimo di difendere la fidanzata. Alla base della tragedia, secondo il 31enne pordenonese, la mentalità e il sentimento religioso dell'uomo che aveva già minacciato più volte la figlia perché voleva integrarsi, perché era troppo occidentale. Chi perdona il Ketawi Dafani è invece la moglie Fatna, che dice di avere bisogno di lui per allevare le altre figlie e aggiunge che forse è stata sana a sbagliare, andandosene di casa per vivere con un uomo più vecchio di lei e per di più non musulmano. Nel boschetto dove Sana è stata uccisa, Massimo ha fatto mettere un cuscino di rose rosse a forma di cuore. Davanti a quello che è successo in Afghanistan in questi giorni, non c'è dubbio che le vicende politiche di casa nostra in parte scolorano, anzi perdono di valore e alcuni fatti, permettetemi di dirlo, sembrano quasi imbarazzanti. Intanto però c'è un fatto politico importante, cioè la manifestazione per la libertà di stampa che era prevista per oggi è stata rinviata in segno di lutto. Detto questo, ci sono però molte cose da registrare e da ricordare in questi giorni, tutte in pratica gravitano attorno a Berlusconi, e per far questo abbiamo in collegamento il collega Vincenzo Miglietta, voce di Radio 24 della politica dai palazzi romani di Montecitorio e Senato. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno Emiliano, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora Vincenzo, prima di ascoltare il primo servizio di ripasso della settimana, ti chiedo al volo un giudizio sintetico sulla settimana che ha appena trascorso Berlusconi, Afghanistan a parte. Ma sì, potremmo dire una settimana luci ed ombre per il Presidente del Consiglio, doveva essere una settimana di consacrazione per quanto fatto dal governo nella ricostruzione dell'Abruzzo, e invece c'è stato un po' il passo falso dei bassi ascolti di Porta a Porta di martedì scorso e poi la tragedia dell'Afghanistan che ha necessariamente offuscato quanto fatto dal governo per la ricostruzione dell'Abruzzo, ma anche le novità in vista della ripresa dei lavori parlamentari. Hai citato Vespa, hai citato Porta a Porta, sicuramente è il momento culminante, il segno distintivo di questi giorni del Premier. Hai già anche accennato alla delusione nell'Auditel, perché Gabriel Garco su Mediaset ha fatto più ascolti, però si è detto molto, si è discusso molto attorno alla puntata di Porta a Porta con Berlusconi in studio. Sentiamo polemiche e veleni in questo servizio di Paolo Panceri. Porta a Porta di Bruno Vespa ieri è stato il catalizzatore di tutte le polemiche che nei giorni scorsi hanno riguardato il mondo dell'informazione. Ospite d'onore in studio Silvio Berlusconi, che ha ripercorso le le tappe che hanno portato alla costruzione e alla consegna delle prime case ai terremotati. Ma il Premier è intervenuto anche sulle polemiche confini dentro il PDL, sulle accuse nate dopo lo slittamento di Ballarò proprio per far spazio a Porta a Porta e sulle polemiche sulla libertà di stampa minacciata dal suo conflitto di interessi come Presidente del Consiglio e proprietario di Mediaset. A questo proposito, Berlusconi ha citato le trasmissioni giornalistiche di Rai 3. Io le posso fare un elenco lungo, partendo da Anno Zero, da Report, da Ballarò, tutte trasmissioni sempre unicamente contro la mia parte politica e contro il mio governo e molto spesso anche contro di me. Vespa invece, punto sul vivo dalle polemiche dopo lo spostamento di Ballarò, ha reagito senza il solito aplomb. Questo gigantesco casino, perché si sposta di due giorni, una trasmissione, io al posto di Floris mi sarei infuriato pure io, però figlio mio, dai, riportiamo le cose, la libertà di stampa, e che cavolo, dai, su. Infine il segretario del PD, Dario Franceschini, ha annunciato che non sarà ospite di Vespa nella trasmissione del 23 settembre. Io non voglio in nessun modo essere usato e rendermi complice di questa idea inqualificabile di trasformare il dolore in spettacolo. Vincenzo Miglietta, voce di Radio 24 dai Palazzi Romani della Politica. La RAI rimane sempre un terreno di scontro apertissimo, infuocato tra i tanti che ce ne sono tra maggioranza e opposizione, tra Berlusconi, meglio dire, e l'opposizione. Prima di farti la domanda, ricordo Vincenzo che giovedì tra l'altro c'è stato un consiglio di amministrazione in RAI proprio sul caso di Porta a Porta, inevitabilmente depotenziato dopo le vicende di Kabul, però la lettura che è stata data è che in qualche modo la vicenda di Vespa, con tutte le polemiche su Ballarò e quant'altro, possa in qualche modo dare una mano a sbloccare invece la situazione di Anno Zero, la temutissima trasmissione di Santoro, perlomeno in casa PDL. Infatti la trasmissione di Santoro deve partire la settimana prossima, però gli spot sono bloccati e soprattutto è bloccato il controverso contratto di Travaglio. E poi sullo sfondo ci sono anche le nomine di Rai 3 che sono ancora congelate. Secondo te, Vincenzo, sulla Rai si può andare verso un parziale armistizio? Sì, lo hai giustamente anticipato da studio, l'assurdità della situazione è questa, che il flop del Presidente del Consiglio a Porta potrebbe riaprire veramente la partita di Anno Zero. In che senso? Come una sorta di compensazione per l'errore palese fatto dai vertici Rai nel proporre in prima serata Porta a Porta martedì lo slittamento di Ballarò, siccome è un errore questo ormai assodato e comunque assorbito dai partiti politici, l'ostaggio nei confronti di Anno Zero, nei confronti di Santoro, potrebbe essere proprio sciolto questo problema facendo il contratto a Travaglio, e se ne è parlato proprio nel consiglio di amministrazione della RAI che tu citavi. Tra l'altro bisogna dire che tutte queste polemiche, soprattutto attorno alla RAI, hanno fatto passare anche in secondo piano il motivo poi qualificante di questa serata speciale di Porta a Porta, cioè la consegna delle prime case ai terremotati di Onna in Abruzzo. Tu Vincenzo, per tanti motivi, in tante occasioni sei stato in Abruzzo in questi mesi, a caldo nei giorni del terremoto, poi sei stato a luglio per il G8, ci sei tornato ancora. Dal tuo punto di vista, al di là poi di speculazioni politiche di parte, insomma, come sta procedendo la ricostruzione in Abruzzo? Devo essere onesto, la ricostruzione all'Aquila e nella sua provincia sta procedendo a tappe forzate. Evidentemente un dramma come quello successo la notte del 6 aprile poteva essere affrontato in tante maniere diverse, sicuramente quello scelto dal governo e attraverso il governo nella persona di Bertolaso e della Protezione Civile è stato lo strumento più idoneo, quindi si è deciso di far passare tutta la macchina organizzativa attraverso Bertolaso e sicuramente il commissario straordinario ha fatto un gran lavoro, abbiamo visto le prime persone già nelle case ad Onna e i lavori nei vari cantieri vanno avanti, i tempi sono rispettati, per cui sicuramente sotto questo aspetto il governo non ha deluso. Vincenzo, non c'è dubbio però che la politica italiana in questi giorni sta percorrendo una strada in qualche modo ad imbuto, che sta arrivando anche con una certa ansia, con una certa dose di nervosismo verso l'inizio di ottobre, quando poi la Consulta dovrà pronunciarsi sul lodo Alfano. Per molti è un passaggio cruciale addirittura della legislatura e del destino dello stesso Premier Berlusconi. Sentiamo su questo il servizio di Maria Luisa Pezzali mercoledì mattina. Mancano solo 3 settimane a quello che nei corridoi dei palazzi viene definito l'appuntamento giudiziario più importante dell'anno. L'udienza pubblica il 6 ottobre prossimo davanti ai giudici della Consulta, chiamati a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del lodo Alfano. La legge che assicura lo scudo processuale alle 4 più alte cariche dello Stato, tra cui il Premier. Se la legge verrà bocciata, come già successe nel 2004 con il lodo Schifani, i processi pendenti a carico di Berlusconi congelati nel frattempo, Mills e Diritti TV a Milano, presunta compravendita di senatori a Roma, verranno ripresi. Ieri sono state depositate le memorie dei legali di Berlusconi e della Procura di Milano che ha sollevato la questione. In una cinquantina di pagine Alessandro Pace, l'avvocato che rappresenta i magistrati milanesi, sostiene che la legge, approvata nel giugno 2008, costituisce in pratica un privilegio illegittimo. Incostituzionale perché viola una serie di principi quali l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e la ragionevole durata dei processi. Garantisce solo il diritto di difesa, replicano nella loro memoria i legali del Premier Niccolò Ghedini e Pietro Longo. I processi vengono sospesi per assicurare il sereno svolgimento delle funzioni. Rispetto al servizio di Maria Luisa Pezzale dobbiamo aggiungere una novità importante arrivata successivamente, cioè che sempre mercoledì l'Avvocatura di Stato a sua volta ha inviato una memoria alla Consulta difendendo il lodo Alfano, e il giorno dopo Stefano Folli, il collega del Sole 24 Ore sul giornale, ha scritto che questa memoria difensiva segnala in qualche modo come il fatto che siamo di fronte ad un passaggio cruciale della legislatura, perché per la prima volta, leggo testualmente, si adombrano addirittura le dimissioni del Presidente del Consiglio. Vincenzo, siamo davvero a questo Armageddon, diciamo così, della politica italiana con questo passaggio della Consulta? Ma forse usare la parola Armageddon è qualcosa di esagerato, ma certamente possiamo dire che la memoria mandata dall'Avvocatura dello Stato alla Corte Costituzionale è qualcosa di rituale. Nel passato non vi è mai stato qualcosa del genere, o quantomeno con questi toni, quindi prefigurare delle eventuali dimissioni del Presidente del Consiglio qualora fosse bocciato il lodo Alfano è un messaggio che molti hanno visto tra il legale e il politico, probabilmente più politico che legale. L'Avvocatura si è difesa dicendo che è una tesi, è un lavoro di studio di puro livello teorico quello che loro hanno prefigurato, che non è quindi calato nella figura del Presidente del Consiglio Berlusconi, ma di un Presidente del Consiglio in generale. Per quello che tu puoi vedere dai movimenti di Palazzo, anche sotto traccia, si lavora o no un'eventuale ipotesi di elezioni anticipate, e con quali alleanze, insomma, fini sono in un modo, casini nell'altro? Tu che aria respiri? Ma l'aria secondo me è quella lì di chi parla molto, ma poi qui nel Parlamento c'è un'estrema tranquillità, nel senso che la forza di Silvio Berlusconi è riconosciuta da tutti, quindi mi sembra che al momento sia più un esercizio di teorico di possibili alleanze future piuttosto di qualcosa che possiamo immaginare nei prossimi mesi. Quindi direi al momento no ad elezioni anticipate. Grazie a Vincenzo Miglietta, giornalista politico di Radio 24. L'ottavo giorno. Ultima parte del programma, e allora ci spostiamo oltreoceano, andiamo a trovare Obama, il presidente americano, che nel weekend, tra l'altro, che sta per cominciare, apparirà praticamente in tutte le televisioni nazionali, e lunedì sarà anche, se non sbaglio, al Letterman Show, e credo che il tema principale sarà la controversa riforma sanitaria che Obama vuole far passare, vuole convincere gli americani sulla bontà, naturalmente, della legge sulla quale crede molto. Lunedì invece, lunedì scorso, Obama ha parlato di finanza ad un anno esatto dal fallimento di Lehman Brothers, che è un po' l'evento simbolo della crisi che stiamo purtroppo ancora vivendo. Sentiamo il servizio su questo di Cristina Balotelli. Barack Obama torna a parlare di regole urgenti per i mercati finanziari, e questa volta lo fa intervenendo nel Tempio della Finanza, alla Federal Hall di Wall Street, a un anno dalla crisi della banca d'affari Lehman Brothers, che ha trascinato nella recessione l'intera economia mondiale. Ci saranno regole più forti, anche perché non tutti negli ambienti finanziari americani stanno al gioco, e c'è chi ha scelto di ignorare la lezione della Lehman Brothers, dice il presidente, che non offre nuove proposte politiche, come scrive l'International Herald Tribune, ma utilizza l'anniversario del fallimento di Lehman Brothers per rimarcare come il sistema finanziario del paese si stia risollevando. La riforma delle regole di Wall Street, presentata dalla sua amministrazione, prevede la creazione di un'agenzia per la tutela dei consumatori, più poteri alla Fed e una stretta sui derivati. L'obiettivo è rafforzare il sistema finanziario per far sì che non si verifichino nuove crisi e modernizzare il sistema regolatorio americano. Prima del discorso di Obama, l'International Herald Tribune titolava in prima pagina che i cambiamenti a Wall Street un anno dopo il fallimento della banca d'affari sono stati pochi. Il sistema sistema finanziario sorprendentemente è andato avanti come se niente fosse. Le banche sono state salvate, ma è stata solo una ristrutturazione di facciata. La disoccupazione è caduta fino all'8% e anche le mega retribuzioni sono rimaste uguali, almeno per i banchieri. Di economia si è parlato molto in settimana, anche da questa parte dell'Oceano Atlantico, naturalmente anche in Europa. Come sempre c'è stata una furibonda girandola di previsioni, di dati, di statistiche sulla crisi. La crisi naturalmente è arrivata, se ne è parlato al Salone dell'Auto di Francoforte, appuntamento cruciale, fondamentale per le quattro ruote, sarà anche al centro del prossimo G20 di Pittsburgh. Però direi che tra tutte le cose che abbiamo sentito e letto in questi giorni mi sembra molto interessante quello che dice l'OCSE mercoledì da Parigi. Infatti viene confermato un po' quello che è il percorso purtroppo inevitabile di una crisi pesante come quella attuale. Le prime botte, i primi colpi sono alla finanza, poi si registra il calo della produzione industriale e per ultimo, ma non ultimo come importanza, c'è il tassello del calo dell'occupazione, quindi dell'aumento dei disoccupati. E proprio di questo parla l'OCSE e sentiamo Vittorio Darold. Crescono segnali che il peggio sia ormai alle spalle, scrive l'OCSE di Parigi, e che la ripresa possa essere vicina, ma per l'occupazione nel breve le prospettive saranno ancora fosche. Insomma, tra riprese e disoccupazione c'è una sfasatura. E per l'Italia il peggio deve ancora venire. Per la penisola la stima è da brivido: a fine 2010 è di 1,124 milioni di disoccupati in più rispetto al 2007, di cui oltre 850.000 in più rispetto al primo trimestre 2009, con un tasso di disoccupazione al 10,5%. Non solo, giovani e precari in Italia saranno particolarmente colpiti dalla crisi. Una situazione che preoccupa l'ufficio studi di SMI Sistema Moda Italia, secondo cui il settore perderà 56.000 unità. Scettico invece il ministro del lavoro Maurizio Sacconi, secondo cui già in passato i dati OCSE nella realtà sono stati smentiti dai dati dell'Istat. Speriamo abbia ragione il ministro, ma nel dubbio sarà meglio prepararsi al peggio. Oggi devo dire ben poche notizie allegre nell'ottavo giorno, allora in questo finale ci vogliamo un po' rifugiare nello sport. Allora, calcio, tennis e Formula 1 direi che sono le discipline in maggiore evidenza in questi giorni. Cominciamo dai motori della Formula 1. Domenica scorsa abbiamo assistito al Gran Premio di Monza con la Ferrari che è giunta terza con Raikkonen. Non male direi come risultato, però insomma è giusto dare onore ai primi due classificati, le due Brown GP di Barrichello e Button, che probabilmente lotteranno anche per il mondiale fino all'ultimo. Ma direi che la notizia più fragorosa della settimana giunge invece mercoledì ed è di tutt'altro genere, come ci spiega questo servizio di Massimo Di Scienza. Un addio o forse un arrivederci con Flavio Briatore è impossibile dare risposte definitive. Il top manager capace di venir su dal nulla, di inventarsi i due piloti più talentuosi degli ultimi anni, Michael Schumacher e Fernando Alonso, e di portare in Formula 1 soldi, lustrini e glamour, lascia la Renault, con il marchio ben poco lusinghiero di aver inscenato l'incidente Bluff di Singapore 2008. Si mormora che il licenziamento di ieri faccia piacere al presidente della federazione, Mosley, che non ama il manager italiano dai tempi della Benetton, e che garantisca alla Renault un salvacondotto dalla FIA. Dal Consiglio Mondiale di lunedì, infatti, non dovrebbero arrivare né penalizzazioni né squalifiche. Ma dopo questo regolamento di conti, per Briatore l'assenza dei circuiti potrebbe essere breve, solo un paio di mesi, fino a quando Mosley lascerà la presidenza FIA a Vatanen o Todd. Dopo le elezioni, Briatore, che nel frattempo diventerà papà e seguirà il suo Queen's Park Rangers, potrebbe tornare a guidare il team Renault o gestire i diritti commerciali del mondiale. Con Briatore, in fondo, ogni addio è un arrivederci. Per chi non è propriamente pratico di Formula 1, riepilogo lo scandalo che poi ha portato alle dimissioni di Briatore. Ruota attorno al sospetto, a questo punto direi piuttosto fondato, che Briatore abbia dai box imposto al suo pilota Piquet Junior di fare un incidente apposta nel GP di Singapore dell'anno scorso, tutto questo per favorire poi quella che sarebbe stata la vittoria del compagno di squadra di Piquet, ovvero lo spagnolo Fernando Alonso. Direi una storiaccia incredibile, sulla quale peraltro in questi giorni si sono anche scatenati persino i giornali americani. E veniamo invece a quello che è l'evento più atteso per gli appassionati del pallone in questa settimana, almeno per i tifosi interisti, ovvero la super sfida di Champions League tra l'Inter di Mourinho e il Barcellona di Guardiola. Tanti naturalmente i temi in sottofondo, dalla sfida tra i campioni d'Italia e quelli soprattutto d'Europa, e poi la grande sfida a maglie invertite tra Ibrahimovic ed Eto'o. Sentiamo Dario Ricci. Ho visto qualcuno fischiare e parlare, però non, non c'era niente di grave. Oh. Parole e musica di Zlatan Ibrahimovic. Era lui l'ex più atteso nella notte delle stelle di San Siro. Dalla curva interista, qualche fischio, qualche striscione e tanta indifferenza. In campo, Inter e Barcellona impattano sullo 0-0. Per Zlatan, serata grigia contro i muscoli di Lucio, ma in generale meglio, molto meglio il Barça. Con Xavi, signore del centrocampo, Messi che scalda i guanti di Julio César, Keita che si divora un gol già fatto. Tra i nerazzurri l'altro ex Eto'o si sbatte ma non punge, Milito ci prova, come Schneider e Stankovic del resto, ma senza far penare troppo la retroguardia catalana. E nella ripresa potrebbe starci anche un rigore per i Blaugrana, per un Mani Galeotto proprio di Stankovic in area di rigore. Alla fine un punto per uno accontenta tutti, ma se il Barcellona è l'Accademia del Calcio, come detto da Mourinho prima e dopo la gara, in vista del ritorno al Camp Nou sarà meglio ripassare appunti e lezione. E chiudiamo con il tennis. In questi giorni Genova sta ospitando la Coppa Davis, l'Italia sta affrontando la sfida impossibile con la Svizzera di Federer. A proposito di Federer, non è riuscito il grande tennista numero uno al mondo a vincere gli internazionali d'America, il Flash in Meadow, il grande slam conclusivo della stagione, ha perso in finale con l'argentino Del Potro, però Flash in Meadow ci ha consegnato invece un passaggio storico in campo femminile. Sentiamo su questo Massimo Di Scienza. Era la risposta europea alle sorelle Venus e Serena Williams, un mix di classe, talento e forza fisica. A soli 23 anni era la numero uno del mondo. Kim Clijsters aveva tutto per lasciare un segno nella storia del tennis, poi due anni fa improvviso il ritiro dall'attività agonistica. Suo papà, Lei Clijsters, ex calciatore professionista nel Malin, si era ammalato di cancro e Kim aveva deciso di lasciare tutto per stargli vicino. Due anni di lotta contro il male fino alla scomparsa del padre avvenuta nel gennaio scorso e durante i quali Kim aveva conosciuto e poi sposato, in segreto alle 6 del mattino, il giocatore di basket americano Brian Lynch, da cui 18 mesi fa è nata la piccola Jada Halley. E c'era anche la bimba sul campo di Flash in Meadows a festeggiare il trionfo di mamma Kim al primo torneo dello slam dopo il ritorno al tennis. Dopo aver battuto le Williams, Venus ai quarti e Serena in semifinale, ecco il 7-5-6-3 per Kim Possible sulla giovane danese Wozniacki. È incredibile quello che è successo, dice la Clijsters, al terzo torneo giocato ho vinto il mio secondo titolo a Flash in Meadows e pensare che ero qui solo per gustarmi l'atmosfera. Invece è entrata nella storia per la prima volta una tennista con wild card ha vinto un torneo del Grande Slam. Siamo alla fine, ricordo tra le tante notizie un po' trascurate di questa settimana la triste scomparsa di Patrick Swayze, grande attore di Hollywood, scomparso a 57 anni per un male incurabile. Lo ricordiamo in Dirty Dancing, Point Break e Ghost. Ricordo invece la mail a cui potete scriverci, ottavogiorno@radio24.it. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Noi ci ritroviamo sabato prossimo alle 9 oppure in replica alle 23, naturalmente sempre su Radio 24.